ritmo bumba, bumba, bumba. Cultura hip hop, cultura hip hop, cultura hip hop. Sonorità tra, sonorità tra, sonorità. Cos'è? Cos'è? Tutta una commedia rap, commedia rap. La mia città è Torino, cresciuto in zona Mirafiori fin da quando ero bambino. Non mi conosci, cretino, non entrare nel mio spazio. Sono talmente incasinato che qui è uno straccio. Lo sapete, non c'entra nulla. Fai un discorso serio e pensano che sia una bufala. Addirittura tutta dittatura. Per 2 grammi di ganja passo 6 ore in questura. Restare concentrato dentro le mura. Io almeno nella strada ci campo per piacere. Non parlatemi di cultura, illuso. Sei un po' confuso, mo dimmi chi è l'intruso. Non bussate alla mia porta, cliccate, visualizzate, ma così gli date corda. Guarda qua la gente come si comporta. Sincero, faccio il mio e non mi importa, non mi importa. In fissa con sta roba e non i gem grossi. MC validi ce n'è pochi, una banda di farlocchi. Qui non sopravvivi se non disponi di ciocchi. Affermati, armati, legge dei sequestrati. Dove sta l'opportunità? Dovrebbe esserci la libertà e l'onestà. Peccato che siamo nella realtà. Le batto l'aggressivo anche quando incido. Anche se sono lucido, la sensazione è come un brivido. Come un brivido, come un brivido, come un brivido. Ritmo bumba, bumba. Cultura hip hop, cultura hip hop, cultura hip hop. Sonorità tra, sonorità tra, sonorità. Cos'è? Cos'è? Cos'è? Tutta una commedia rap, commedia rap.